tanto non ci che ti mando la foto. No, tu aspetta, io ho acceso l'altro, qua sei 9:25, quasi 9:30, sì, qua è da me. Ma bisogna vedere, ma io o Luca, quanto ti sto arrivando io? Vabbè, ciò diciamo, l'ho visto un po' il cane morto, fa un passaggio. Vado a vedere, a me tutti mi dicevano 9:10, qualcosa del genere, vedi un po'. Sì, da me sì, segnale 3 a picchi di 5. Hai visto, quella è lo Smith, è tuo che non va, tu non ti preoccupare, del suo Smith, dai. È tutto regolato, anzi addirittura sei appena più alto di Luca come segnale, sei un po' più alto di Luca. Vai tranquillo, dai, è tutto a posto, dai che stacco, no, questo è un altro però, stacco, questo l'ho acceso per vedere il segnale, tu, che devo provarne un altro che se ci sta mettendo a posto. Tu sai che stavo cercando i tappi, tutte e due coperchie di questo baracchino ci avevo e ci sono io solo dentro qua, non riuscivo a trovare, poi l'ho trovato sopra una busta, che ci aveva appoggiato una busta vuota sopra e mi ricoprivo, non riuscivo a trovare più i tappi del baracchino, e poi te l'ho smontato io poco fa, non li trovavo più. No, ma io l'ho tolti ieri, a dire la verità, erano smontati da ieri, li spostavo ogni tanto, ma se sono io qua dentro non c'è altro nessuno, eppure non li trovavo, avevo appoggiato una busta vuota sopra e mi ricoprivo, non li vedevo per quello. Cazzo, sai che provo l'altro, se sono riuscito a fare qualcosa, attacco l'altro. E appena non lo so, altro. Sono quelli con i saturi gonfi. Ma devi guardare intorno ai condensatori pure. Dopo che cambi quelli, controlla intorno ai condensatori, che a volte quelle resistenze, qualcosa te le ha, bisogna controllarle. È positivo, no? Io quello che stavo provando prima, c'era un condensatore, non funzionava, anzi non andava in trasmissione, quello che stavo provando prima. Un condensatore c'era gonfio. L'ho tolto, l'ho cercato, già ce l'avevo, era da quanto, neanche me lo ricordo più, da 4,70 a 16 volt. E di quelli ne avevo, perché sono molto, ci sono molto nei baracchini. L'ho cambiato e non mi accendeva più. Prima accendeva, nemmeno accendeva. E allora mi sono fresco, gli ho fatto il ponte, ho provato a fargli il ponte proprio all'interruttore dove accendeva, e così funziona. Diversamente non sono riuscito a trovare il problema. Non arriva le 13-12 volte all'interruttore dove accende. È di quelli che hanno la pista, le piste di quelli che non ci vuole l'ingrandimento per vedere quei componenti che sono proprio invisibili a vederli. Caparroccia, e allora gli ho fatto un po', e non sono riuscito a vedere una pista, no, totalmente sottile, anche non sono riuscito a vederne, detto qualcosa. Comunque gli ho fatto il ponte e funziona alla grande, stanno funzionando, l'ho lasciato acceso, era un paio d'ore che era acceso lì a fermo da solo. Sì, sono i nuovi di quelli, capito, che stanno facendo adesso, anche il 48 fanno, altri baracchini fanno così, che hanno quei componenti fini, quelli piccoli proprio invisibili. Sì, erano di vecchia data quelli che ho riparato, poi in mezzo c'era anche questi, ne ha uno piccolino, anche quello mi ha fregato, guarda, un altro è un peccato, era fatto un pacchetto di sigarette, funzionava pure bene. Tutto aperto, sono riuscito a fare tutti i lavoretti, parlo col microfonino piccolino che c'ha lui, l'ho fatto, anche quello è quello che c'ha proprio quei componenti così fichi. Anche quello, cosa è successo? Di solito io lo faccio con un alimentatore di quelli suinci, che se faccio uno sbaglio, quando sto provando, si va in blocco lui e non fa nessun danno al baracchino. No, per la velocità, per non perdere tempo, attaccare lì, l'ho attaccato da un'altra parte, e non so come ha fatto, ho messo con due pinzette di coso, no? Lì hanno toccato assieme le pinzette, non accende più il baracchino. Sì, quelli adopero, però adesso ero da un altro banco, da un'altra parte, e ho attaccato una cosa al volo, con le pinze, capito? E quello era di quelli vecchi, l'alimentatori, e no. Toccato le pinze assieme, hanno fatto il matte più assieme, hanno toccato, hai capito? È positivo, no, già ne ho tanti, me ne ho costruito qualcuno pure io, dico la verità, ne ho tanti di messi, ne ho regalato pure, ogni tanto ne regalo qualcuno, li sistemo e li regalo di quelli. Ne ho fatto uno da 150 ampere, fa 28 e qualcosa, quasi 29 più 13 da 150 ampere, l'ho costruito io uno, l'ho fatto con i moduli, dai. E quello quello però non lo so se si blocca, quello mi pare che anche se sono, no, quello non si blocca, quello brucia e bu se sbagli, è positivo, dai, però no, non gliel'ho fatto qua, non l'ho fatto, e niente, l'ho fatto con i moduli, capito, ho preso quei moduli, li ho già diversi anni, però niente, perché posso provare, devo, sto riparando un attimo, riparando, che io non sono tecnico, però mi aggiusto, ad un lineare grosso, 1200 di quelli di camion, di coso, io lo attacco qua e questo lo porta bene, capito, questa alimentazione. Parisi in superiore dovranno un bel di assunzione ai vigili del fuoco. Erano i coglioni. Oh, a tu, questo l'avevamo provato, cazzo, l'avevamo portato a volo, l'avevamo fatto insieme a uno di Vidalba, un altro mezzo scemo che era fissato in camion, questi lineari grossi. L'avevamo costruito insieme a lui, questo alimentatore, però poi abbiamo fatto le prove, perché aveva costruito un altro di Borre, uno che fa ripara baracchini, radio, televisione, queste cose del genere, e l'abbiamo portato lì a fare, eravamo andati lì, eravamo venuti da Cagliari, altri da Cagliari, lì avevamo fatto le prove lì. Beh, siamo riusciti, a parte la stazione fissa, a mettere su un appunto di questo qua con un inverter di quello per che si adopera da 12 a fare la corrente a 220, perché non è che assorbe molto questa cosa. Abbiamo fatto con la corrente a 220 dell'appunto, abbiamo fatto funzionare l'alimentatore, abbiamo collegato un 1200 a 24 e è riuscito a portare roba di 1300 watt da un appunto, abbiamo fatto una prova. Si cambiava, se l'accelerava si spegneva il motore. No, l'antenna che era una 5000, tranquillo, era una 5000 l'antenna, capito? Io in camion, io avevo una 5000 turbo, una 5000 proprio l'avevo presa, l'avevo fatto io, l'avevo fatto arrivare, il primo l'avevo fatto arrivare qua in Sardegna nel 2004, non ricordo ancora, quella 2000, era la 5000 turbo. L'ho fatta arrivare io quella lì, ce l'avevo in camion, eppure l'ho tenuto 11 anni quel camion, e 11 anni quell'antenna ce l'avevo sempre qui a casa, non la volevo là, l'ho venduta da poco, c'era un camionista, però guarda, io ce l'ho avuta 11 anni sul camion, non mi ha dato mai problemi, l'ho tolta ed era lucida, lucida, lucida, avevo una carica grossa, era una 5000 turbo. Mario, cosa gliel'ha costruita Mario Scoiato, questo a Giovannino, l'originale, gliel'ha costruita lui una cosa che sembra un traliccio in camion, gliel'aveva fatta lui Mario Scoiato, è positivo, no, già il turno le fa lui, le torniture, le cose, sì. L'ho conosciuto di persona, dai, l'avevo conosciuto di persona quando andavo a quei raduni mi sembra a Porto Mare, lì a Porto Mare, no, l'avevo conosciuto lì. E poi dire, no, ma se in quel raduno tu vedevi, no, arrivavano queste macchine, queste basi magnetiche a tre cusi, queste antenne costruite da, tu devi vedere, c'era lì la sfilata di queste, a chi l'aveva fatta meglio l'antenna, allora, c'erano queste a tre cose di calamite sopra la capota, ma di queste antenne grosse, erano una cosa impressionante, tutte nelle vetture, capito, non solo nei camion, anche nelle vetture, è positivo. Positivo. Aspetta, adesso sto attaccando l'altro, si è già acceso, ho attaccato solamente il positivo e con l'antenna si è acceso, vuol dire che funziona. Oh, non va in trasmissione, neanche riceve. Prova a parlare che cambio comunque un attimino, un po' a lungo che passo, a vedere se ti ascolto. Sì, no, non funziona. Non riceve, no, non muove neanche lo smith, non muove, ho attaccato il coso, no, lo smetto. Allora, qua cosa può essere? Oh, sia il finale. Il finale c'ho 1979, ho visto. Hanno fatto un intake di quelli 500S, sicuramente hanno fatto già qualche modifica, una volta che cambi il poi finale 1969 devi cambiare altre cose che è un casino, io 1969 non ne ho, però lo posso smontare e controllare se è buono, e questo bisogna vedere, lo devo controllare, acceso è acceso, è sul canale 20, non so se è un 34, 500S cos'è, 34, no? È positivo, nero e argentato, perché altri due quelle che volevo mettere a posto, ma sono a 40 canali. Sì, e sai perché metto a congedo? Perché quando inizia a rimanere al 20 inizia a mancare il completo, il 20, però non si gira sempre, vedi? E gira sempre. E dopo però non è più buio, adesso lascio stare a parte. Altri li ho fatti funzionare, stanno funzionando. Uno l'ho chiuso, tutto era a posto, ma una volta l'ho chiuso e si è spento lo switch, ma vaffanna, poi l'ho lasciato perdere. Quello l'ho messo a posto stesso. Comunque li provo adesso, così mi dai un controllino, perché io non li ho fatti ascoltare a nessuno, io sono messi a posto. E infatti io cerco gli altri. Oh, ci sei? Ci sei, Anto? Sei, accende e provo l'altro. Oh, vedi un po', Anto, se sta uscendo questo. Ci possono abbassare i watt nel Mobicom? Ah, ok, dai. abbassa, secondo me come la abbassarlo un po', è troppo tirato quel mobico. Si scappa, allora l'ho abbassato adesso. Ma com'è, un bel di amplificazione c'è? Vabbè, dai, tu lo senti a bombolino tu. Vediamo un po', Gigino Vulcano, lo senti a bombolino? Basta, lo sento, però adesso io qua non so neanche gli occhiali e rispetto se non lo penso, non so quanto però è un tu cosa è? Con i vatti bassi, Gigi Vulcano. Attento, Gigi Vulcano, senti Antonio, capa. Antonio, però mi sa che non si può, non sta funzionando lo sistema qua. Anche questo c'è. Prova lui, o lui, prova a parlare un attimo. 1, 2, 3, prova radio, mi senti? No, vedere se passo il segnale tu a Luca o Antonio Riserva, prova a vedere se mi fai lo sistema. Ma qual è il radio lui? Ehi, va bene adesso. La fanno in bomba. Adesso l'ho abbassata l'amplificazione un po'. Perché di no, Giulia. Non è perché, ma è meglio di quelli che hai. È vero. È bello illuminato, ho visto. Sì, è bello sì. Capo, lo smitter mi accorgo che va e viene, va e viene. Adesso. Quelli sono i picchi di modulazione. Capa, capa. Quando lo metto all'occhio, capa, ma... Ecco qua, prova a vedere com'è. No, esci male, Antu. Ma come è stato, no? Fischi, oscillate e stressate con le stazionari e ti fa fischiare. A me non lo fa zia. Mi faccio uscire complesso a me, sono sincero. Come ce la fa l'alimentatore? Perché quella sopra è un po' più tanto per dire un'altra paradigma. Tu, le stazionarie sono a zero, non ce n'è qua. Io ho controllato, non c'è, non si muove nemmeno. Come è cazzo possibile? Come devo aprire anche questo, perché Santiago di Lucca e le cose mi arrivano sempre e è molto basso. E allora bisogna regolarlo un po' questo qua, ascoltarlo. Quando apro per fare lo zigo, se a qualcuno che l'ascolta e riesco a regolarlo. C'ho questo cavolo di rumore che me ammazza in me. Se qualcuno ha che fare anche no, tutti qua, io credo qua, ma... Ehi Gigi, mi senti? Basta, mi sento male. Capa, no, io qua già ti sento, ma il problema è che... Tanto io ti ascolto bene, ma se vuoi ti registro, te lo mando su WhatsApp. Capa, ho difficoltà a ascoltare Gigi Vulcano, perché c'ho questo cavolo di fischio, cazzo, deve essere qualche cosa sul tetto, quei cazzo di cose di internet che rompono le palle. E no, ho capo in certi momenti, no, non si intende nulla. Non è che non sta uscendo bene, sta uscendo bene così basso, però è proprio basso basso, hai capito lui? Devo abbassare il volume perché se parli tu mi spacchi i timpani rispetto a lui, capito? Allora devo abbassare il volume e lo sento basso basso di radio, capito? Ehi, no, un attimino io rimango in ascolto, comunque tu io ti ascolto bene, se vuoi ti registro te lo mando su WhatsApp. Capa, mandamelo su WhatsApp, attenzione, Luca del Monte, senti il bombolo, capa. Aspetta, pronto, sì, vai. Attenzione, Luca del Monte, senti Antonio Bombolo, capa. All'ascolto, Antonio Vermentino. Se tratta di separare del letargo. Non so se c'è andato. No, mi sa di no. No, non c'è andato. Aspetta, si sdraia un po'. Hola. Ehi, dimmi, chi è che c'è? Luca? Non riesco a capire perché fa così. Vabbè, pazienza. Dove c'è più nessuno? Oh, Anto, ci sei?